Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 32esimo episodio di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Siamo reduci dal Forum della Comunicazione, dove tra le pareti dell'auditorium disegnate da Renzo Piano sono risuonate ancora una volta parole vecchie, superate, obsolete. Le inutili ma rassicuranti parole d'ordine del marketing di sempre, che però sembrano ancora in grado di narcotizzare il mondo delle aziende, convinte che nulla cambierà almeno fino a quando i cantastorie saranno pescati nella solita casta autorigenerante. Eppure internet, oltre ad aver insegnato a oltre la metà degli italiani come fare cose nuove, ha innanzitutto cambiato il linguaggio degli italiani, creando nuove parole, nuovi stili, persino nuove arti e anche un nuovo modo di presentare le proprie idee. E guarda caso si tratta delle idee più dolcemente destabilizzanti. Ne parliamo tra pochissimo. Technology always changes a language. When printing came in the 1400s, it changed the language. New styles developed, new spellings, new punctuation systems, and so on. When the telephone came in the 19th century, it changed the language. New patterns of dialogue came into being. When broadcasting started in the 1920s, it changed the language. Think of all the styles in the broadcasting medium that we didn't have before, like sports commentary and news reading and weather forecasting and chat shows and all of that. And when the internet came into being, it changed the language. But nobody, I think, ever expected the language to be so diversified as a result of the internet, simply because nobody was able to predict exactly how many different technological variations there were going to be of electronically mediated communication. I mean, just think. There's the World Wide Web, there's email, there's chat rooms, there's virtual worlds, the Dungeons and Dragons games that people play, there's blogging, there's instant messaging, there's social networking sites now like YouTube and Facebook, there's Twittering, there's mobile phone texting, and it goes on and on. Allora, era la voce di David Crystal, un esperto di linguistica che, guarda caso, parlava con un inglese molto BBC e ci raccontava come cambiano i linguaggi delle persone con l'entrata nell'uso comune di tante pratiche indotte da internet. Parliamo di questo, ma anche di cose molto più spicce, oggi in compagnia intanto di Emanuela Zaccone. Ciao Emanuela. Buongiorno. Emanuela, che è sicuramente un'esperta di social media marketing, potremmo dire, per la sua attività anche con Ninja Marketing, sono sicuramente dei pionieri in quest'area, ma svolge anche la attività di ricercatrice presso Telecom Italia su che cosa? Beh, originariamente era un progetto su audiovisivi e social network marketing, adesso in realtà è molto più ampio sul lato social media marketing in generale. E alla mia sinistra invece abbiamo, da Roma, prima abbiamo sentito un accento vagamente siciliano, invece più rassicurante, Giuliano Iacovelli. Ciao Giuliano. Buongiorno. Che, vabbè, è uno dei membri del board di Indigeni Digitali, se non sbaglio, insieme a Fabio Lalli, insomma animatore di queste attività, diciamo, proto-imprenditoriali, potremmo dire, ma anche sicuramente un notevole esperto di tutto quello che serve per far funzionare queste cose anche sotto il profilo del business, una persona che si muove molto bene nel brodo di queste start-up e che conosce molto bene l'ecosistema, come viene chiamato rigorosamente, delle start-up. due persone che sicuramente se le sentiremo parlare tra poco, magari loro daranno per scontati molti termini, molti modi di dire, tipici anche della loro età, oltre che delle loro attività, ma che hanno sicuramente già intanto interiorizzato un linguaggio molto, molto moderno. Tu, Emanuela, ti rendi conto quando parli di avere sicuramente delle espressioni un po' indotte dalle cose di cui ti occupi? Assolutamente sì, soprattutto quando vedi certe facce che ti guardano come «ma che lingua sta parlando?». Ma ti senti obbligata a fare uno sforzo di divulgazione in qualche modo? Dipende, a volte mi autoregolo, a seconda di chi ho davanti può capitare che ci pensi un attimo magari prima di dire certe cose. Magari non evito di dirle, ma le spiego in modo più, sì, divulgativo, divertente anche. Ecco, io ho rastrellato fondamentalmente questi due ospiti all'ultimo forum della comunicazione che si è svolto questa settimana all'Auditorium di Roma, evento sicuramente importante, che ha visto alternarsi sul palco le persone che hanno alle spalle una grande esperienza nella comunicazione, soprattutto istituzionale, verso cui dobbiamo avere, secondo me, un grande rispetto, ma che, come dire, è stato un po' anche criticato, come a sua volta accadde all'analogo evento milanese di qualche tempo fa, perché c'era un clima un po' stantio. In particolare, per esempio, questo claim del Forum della Comunicazione 2001, chi non comunica scompare, io l'ho trovato un po' superato, perché tutto sommato dicevamo anche su Frenfield, oggi se non comunichi non scompari affatto, semmai, dato che c'è un mondo che parla di te indipendentemente da quello che tu possa fare, un mondo che può ottenere visibilità per conto suo, il problema è che tu non hai più, se non comunichi, una influenza sulla tua reputazione. Giuliano, sei d'accordo? Beh, sì, assolutamente, anche perché nel momento in cui noi strumenti di comunicazione sociali hanno generato conversazione soprattutto dal basso, e in questo momento la tua reputazione non è più per forza quello che tu dici di te, ma soprattutto quello che gli altri dicono di te, e quindi va controllato, quantomeno bisogna parlare, appunto, essere attivi all'interno di queste conversazioni per poter continuare a cercare di apparire per quello che si sente, perché altrimenti va tutto in mano ti rischi di perdere il controllo. Ecco, ma Emanuela, in questi anni non avrebbero dovuto magari imparare qualcosa, fare un piccolo bagno di umiltà, visto che ci sono state storie anche abbastanza dolorose, tipo quella per esempio di Carrefour, o anche quella più recente di Patrizia Pepe, insomma casi in cui è stata molto molto tardiva la disponibilità a conversare, no, di questi brand. Il punto è che secondo me ancora è una questione di mentalità. Non hanno capito che il potere comunque della conversazione adesso viene per lo più dal basso, perché quando abbiamo a che fare con social che hanno un potere di eco veramente amplissimo, beh, c'è poco da fare. Se fai un errore, quell'errore lì sarà notato veramente veramente da molti. Il punto è che non hanno capito che la posizione non è più dall'alto verso il basso, tutt'al più può essere di un incontro di dinamiche che vanno dall'alto al basso e viceversa. Tutt'al più. Sono temi che insomma sono ritornati più volte nelle nostre trasmissioni, ma cerchiamo di fare un piccolo salto e di parlare intanto di questo stacco che si è notato durante il forum tra la conferenza tradizionale con insomma una serie di eventi dove c'erano questi che sono ormai dei veri e propri VIP della comunicazione sul palco e la platea che ascoltava, e poi c'è stata una doppia sessione di Ignite, che è un particolare format di presentazioni. Non aggiungiamo nulla perché ce lo spiega il moderatore della seconda giornata di questi Ignite, cioè Fabio Lalli. Allora, l'Ignite è un format nato in America ormai qualche anno fa, portato in Italia da Luca Sartoni e da Nicola Mattina, che hanno dato via appunto all'Ignite Italia. È un format che prevede la presentazione di talk di 5 minuti, fatti da 20 slide in 15 secondi ciascuna, senza interruzioni e senza possibilità di andare oltre il tempo. Quindi, diciamo, l'obiettivo è di sintetizzare i concetti e riuscire ad arrivare ad un messaggio diretto all'utente in 5 minuti. Ieri ci sono stati 7 talk, tutti abbastanza interessanti, di cui uno tra l'altro quello di Luca, che ha chiuso appunto la giornata, che come al solito ha stupito perché ha un suo modo di presentare, a mio avviso, eccezionale. Beh, sicuramente Luca è una delle persone che ha portato anche questa cultura in Italia intanto di entrare nelle necessità, nelle esigenze degli interlocutori, perché quello che vediamo da anni in qualsiasi convegno, evento pubblico, sono queste lunghe relazioni dove chi parla si sta parlando addosso e non pensa a dare valore al tempo delle persone che stanno davanti. Sì, io ho notato proprio ieri all'uscita dal forum della comunicazione, parlando con delle persone, che l'effetto sugli utenti, quindi sugli ascoltatori, era decisamente positivo. Il livello di attenzione era molto più alto, forse proprio perché si passa da un argomento all'altro di 5 minuti in 5 minuti, quindi non si ha il tempo di far abbassare l'attenzione. E poi il fatto stesso che cambia ogni argomento, le persone sono interessate a cercare di capire, e il tempo che capiscono di che si parla è finito il talk. Allora, l'abbiamo menzionato, introdotto degnamente da Fabio Lalli, lo abbiamo in collegamento da Vienna. Ciao Luca Sartoni. Ciao a tutti. Allora, Luca, tu, piccola presentazione, tu lavori, perché lavori in Austria? Qualcuno potrebbe chiedersi. Lavori per una società che si chiama 123 People, corretto? Sì, 123 People è un motore di ricerca verticale di persone. E dal 2009 lavoro per 123 People. Ho lavorato per 6 mesi, 7 mesi in Italia come country manager, e da giugno 2010 mi sono trasferito a Vienna, dove in realtà non è vero che lavoro da Vienna, perché io viaggio molto per conferenze e eventi, quindi il mio luogo di lavoro preferito è il gate dell'aeroporto, questo più spesso. Però diciamo che il centro è Vienna, e questa sera mi trovate a Vienna. Benissimo, d'accordo, quindi avremo questo clima un po' da bel Danubio blu. Allora, tu hai portato insieme a Nicola Mattina questo format in Italia. Quanto tempo fa questo Ignite? Dunque, il primo evento Ignite in Italia l'abbiamo fatto a Romagna Camp nel 2009 e a settembre. Quindi settembre 2009 abbiamo fatto il primo evento Ignite in Italia. Dopodiché io ho continuato a organizzarli a Ravenna, insomma in Romagna, per uno al mese per circa 6 mesi, e nel frattempo, parallelamente, anche Nicola ha iniziato a organizzarne a Roma, quindi il gruppo Ignite Italia lavorava così su due fronti. Dopodiché io mi sono trasferito e Nicola ha continuato a organizzarli, e quando capito a Roma cerco sempre di capitare in occasione di un Ignite in Italia, presso anche altri eventi, diciamo al forum della comunicazione nei giorni scorsi, ma anche a Milano in altre occasioni. Ecco, visto che oggi parliamo di come internet cambia i nostri linguaggi, i nostri stili e persino i nostri format comunicativi, è corretto dire che quando si tiene un Ignite già si sta pensando al video che poi ne verrà fuori e che dovrà essere reso circolare e virale su internet? Beh sì, secondo me è corretto pensarlo, per una serie di ragioni. La principale è che l'Ignite non si può improvvisare, cosa che invece purtroppo spesso nelle presentazioni capita. Io non sono solo un maniaco dell'Ignite, ma sono anche un maniaco del public speaking e delle presentazioni in generale. Un po' perché per lavoro sono spesso sui palchi a parlare di argomenti relativi al mio mestiere, un po' perché è una delle mie passioni. E quindi mi rendo conto che molto spesso chi sale sul palco o lo fa non proprio volentieri, perché il proprio lavoro lo porta a dover rappresentare l'azienda o a parlare di argomenti di cui si occupa, ma non è diciamo non lo fa con piacere, oppure capita spesso che gli impegni sono talmente tanti che si trascura un po' la parte di preparazione di queste presentazioni. L'Ignite è una forma di presentazione che non consente l'improvvisazione, assolutamente, perché è una disciplina. È troppo complicato per essere improvvisato. Non complicato nel formato, perché il formato, se ci pensiamo, è semplicissimo: 5 minuti su un palco, 20 slide, 15 secondi tra una slide e l'altra. Ma è complicato riuscire a portare un messaggio che sia sufficientemente chiaro in 5 minuti. Di solito si dice che chi ha poco da dire parla molto lungo, e in effetti è vero. Guarda Luca, circa una decina d'anni fa anche a me fecero dei training di public speaking, perché io lavoravo in agenzie di comunicazione aziendale, e c'erano queste cose che venivano ripetute all'infinito, che risalivano addirittura agli anni 60, questa cosa di fare il grande respiro, tecniche di rilassamento prima di salire sul palco, poi l'eye contact, cioè il contatto visivo con la platea continuo. Io non so, però ho come la sensazione che la linea tra il palco e la platea si stia affievolendo e che molte di queste regole vadano in qualche modo riviste. Sei d'accordo, Luca? Credo che... forse con questo non sono d'accordo. No. C'è una base inestricabile, secondo te, che tutti dovrebbero... No, dunque, io credo invece che questa cosa si mantenga. Nel senso che quando si studia public speaking, io lo sto studiando ancora in questo momento, mi capita anche di insegnarlo. Allora, io lo faccio in ambito aziendale, quindi non lo faccio per portare messaggi politici o messaggi spirituali. I più grandi public speaker al mondo sono i predicatori americani, ok? Io lo faccio di natura aziendale e quello che mi capita sempre più spesso è di fare training o workshop all'interno delle università o all'interno di corsi di formazione in cui i ragazzi che stanno facendo delle business school iniziano a muovere i primi passi nell'imprenditoria. E quello che mi capita di insegnare loro è come tradurre il loro progetto d'impresa in una presentazione efficace che possa essere valida sia per vendere il prodotto che stanno producendo oppure per trovare un finanziatore o dei partner per il proprio progetto. Per farlo però si fa sempre riferimento alle basi del public speaking che risalgono, sì, forse lo studio moderno risale agli anni 60-70, magari non in quei trucchi, diciamo, un po' da imbonitore. Ecco, io per esempio ci sono una serie di principi che mi piace insegnare, non sono tanto relativi al respiro iniziale, sono più relativi a come costruire la storia della tua presentazione, perché il problema è che, come dicevo prima, l'Ignite non si può improvvisare, però si può tirare via. Quindi uno dei problemi degli Ignite spesso è che si dice, vabbè, sono 20 slide, io butto giù 20 slide, poi ci parlo sopra, siccome io conosco l'argomento, il risultato sarà buono. In realtà no, non è neanche così. Bisogna applicarsi. Beh, c'è ancora un certo spettro, si vede, di qualità tra chi come te ha una lunga esperienza e chi magari lo fa per la prima volta. Sentiamo ancora cosa ci racconta Fabio Lalli, che abbiamo intervistato all'Auditorium mercoledì. Ecco, diciamo, questa cultura dello show and tell è di origine soprattutto anglosassone, addirittura negli Stati Uniti, nella primary school, cioè nella scuola elementare pubblica. Ai ragazzi, anche di 8-9 anni, insegnano, come ci ricordano anche i fumetti dei Peanuts, no? Il personaggio di Piper i tappetti, che era costretta a raccontare un episodio della sua vita quotidiana in un tempo limitato. Però, insomma, da un lato può sembrare troppo, no? Abituare in età così acerba i ragazzi a parlare in pubblico. Dall'altro, però, è interessante perché dà loro lo spazio di esprimersi e la capacità comunque di trasmettere qualcosa che non siano semplici nozioni. Ma in Italia la cultura che dici tu dell'iniziare fin dalla scuola a parlare in pubblico a mio avviso non c'è, e lo vediamo ogni volta che c'è un evento dell'Ignite, degli indigeni stesso, durante i quali i ragazzi giovani che escono dall'università, quindi hanno già un percorso, diciamo, di studio professionale un po' più lungo, non sanno presentare in pubblico. Perdono il tempo, non hanno preparato il contenuto e molto spesso sono imbarazzati dall'affrontare il pubblico, che per carità sicuramente succede a tutti alle prime volte, però è un imbarazzo eccessivo, quando invece, conoscendo delle figlie e amici che, come dici tu, sono di scuole americane in Italia, hanno invece una predisposizione a parlare in pubblico, a fare gli showman per qualche minuto in modo decisamente diverso, sanno. Quindi però anche noi abbiamo questo riflesso condizionato di parlare di showman come se vi fosse una barriera clamorosa tra il palcoscenico e la platea, mentre l'idea del public speaking fa parte proprio della vita delle comunità nel mondo anglosassone, perché esistono per esempio le assemblee pubbliche in cui informalmente per esempio tutta una comunità discute senza troppi problemi di fare bella o brutta figura i problemi del territorio, cosa che da noi, lasciatemi dire, non esiste, perché comunque il palcoscenico deve essere qualcosa riservato a pochi eletti. Il web ha moltiplicato la nascita di questi micro eventi dove salire su un palco non è così impegnativo comunque. Il web secondo me sta già cambiando la modalità di esporsi, cioè fino a poco tempo fa era già più difficile dire la propria e condividerla. Il web questa cosa la sta già modificando, io vedo sempre più persone che comunque si espongono con un post o con un video registrato su YouTube o con la presenza ad un evento nel quale presentano un progetto più che un'esperienza ed è assolutamente secondo me merito di internet questo passaggio storico. Poi l'Ignite è perfetto, come dicevi prima, è un format rapido, diretto e indolore per chi sta appunto sul palco. Allora, abbiamo sentito ancora Fabio Lalli che conferma alcune delle cose che ha detto Luca, però io vorrei chiedere anche agli ospiti in studio, c'è una cosa su cui forse bisognerebbe aprire un po' una discussione. Se il punto di riferimento è ancora il public speaker ideale è il telepredicatore o il predicatore americano, beh, però il suo scopo non è scambiare, trasmettere un'idea, il suo scopo è la persuasione. Voi quando salite sul palco dell'Ignite volete semplicemente fare in modo che in 5 minuti la vostra idea comunque raggiunga il pubblico, in modo che loro possano farsi una loro idea su quello che voi avete detto. Giuliano? Sì, assolutamente. Dal lato è anche il vantaggio dell'Ignite, nel senso, dover presentare un concetto, un progetto, quello che sia, in 5 minuti ti costringe ad averlo estremamente chiaro, ad essere padrone dell'argomento che tratti, ma che possa arrivare perfettamente al pubblico in maniera in cui lo comunichi. Dal punto di vista della persuasione e di come, tra virgolette, convincere, in realtà non ti saprei dire in base all'esperienza mia, per quello che ho sempre dovuto fare io. Ignite parlava, poi peraltro raccontava esattamente la mia esperienza personale del vivere il web meno da spettatore, quindi l'ho dato più una forma di consiglio, che sì, poteva persuadere ma non per forza convincere, o più uno spronare le persone a partecipare in maniera attiva, perché io ne avevo beneficiato molto per quello che avevo fatto fino a quel momento. Magari non era il tuo caso, Luca, invece tu parlavi proprio di tecniche alla fine di convincimento, perché raccontavi che cosa raccontavi nel tuo Ignite, Luca? Vuoi dirlo tu? Allora, il mio Ignite di qualche giorno fa a Roma, ho fatto la versione italiana dell'Ignite che ho presentato al Web 2.0 Expo di San Francisco lo scorso marzo. Il titolo è Symbolic Violence in Social Media, che in italiano suona tipo violenza simbolica nei media sociali. Adesso vorrei un attimo però fare un appunto su quello di prima. Tu dici che io sono un tento la persuasione, mi accusi di voler essere un persuasore. Io non solo stai un po' forzando. No, io sto dicendo, se il riferimento sono i persuasori, non vuol dire che tu sei un persuasore. Vuol dire tu mi accusi di essere un persuasore. Io non solo lo confermo, ma sarei disposto a firmare questo statement. Io quando penso in Ignite, quando inizio a ragionare sull'Ignite, inizio a prepararlo, io lavoro metodicamente per la persuasione. Okay. Ma sei d'accordo con me che quello è solo uno spicchio dello spettro delle cose che puoi fare da un palco quando hai una platea davanti? No, io credo che sia totalmente quello da fare quando sei su un palco e sei alla platea davanti. Seth Godin dice che una presentazione è un'opportunità, anzi, addirittura che è un privilegio, perché la possibilità di poter avere un palco non è data a tutti. E quando sei sul palco io vivo una grandissima responsabilità. Cioè la vivo proprio come una responsabilità. Io sto portando via, sto beneficiando del tempo, dell'attenzione, dell'attività intellettuale di tutte le persone che sono davanti. E quando le persone guardano un video di me che parlo su YouTube, io sto utilizzando il loro tempo per uno scopo. Quello che voglio fare è cambiare la loro opinione riguardo al mio argomento. Non in maniera cattiva, io non voglio. No, ma infatti la persuasione non era un'accusa. Cioè, non è. Ma sentiamo anche Emanuela, che anche lei ha fatto un Ignite, poi parleremo anche del merito delle vostre presentazioni. Tu hai parlato di social TV. Sei d'accordo con Luca, Emanuela? In parte sì, in parte no, nel senso che Vedi, a me piace moltissimo parlare in pubblico. Quello che voglio fare, almeno, l'idea ogni volta che preparo un discorso in pubblico, da un lato è raccontare una storia, dall'altro è entusiasmare. Quello è il mio scopo principale. 5 minuti sono abbastanza per entusiasmare la gente. A me non mi interessa solo che capisca quello che gli voglio dire. Qual è la storia che ci sta dietro e mi piace raccontargliela bene. Ma io li voglio entusiasti, esattamente come sono io quando salgo lì. Se riesco a capire quello, allora probabilmente riesco anche ad appassionarli e quindi... probabilmente persuaderli, come effettivamente mi è capitato, quindi devo dire l'entusiasmo funziona. Va bene Luca, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, mi dispiace non poter portare avanti il dibattito, dobbiamo entrare un po' anche nel merito delle cose di cui abbiamo parlato e devo mandare un altro inserto. Grazie infinite e ci sentiamo alla prossima occasione utile. Alla prossima, ciao, ciao a tutti. Allora, siamo in compagnia di Roberto Braga, che lavora per l'Università di Bologna e che ha appena tenuto un interessante Ignite, una di queste rapidissime presentazioni nel corso del forum della comunicazione. L'Ignite era sulla pirateria, il succo della tua presentazione. In poche parole, il progetto di ricerca che sto portando avanti per Telecom Italia è un progetto di ricerca sulla pirateria e si propone di ripensare la pirateria non solo come un problema per industrie culturali, ma come un'opportunità, quindi come uno strumento per creare innovazione nei modelli di business e uno strumento che può portare denaro alle industrie culturali. In che modo? E in tanti modi. Diciamo che le strategie migliori da utilizzare e che sulle quali ancora abbiamo ancora molto da fare, perché dobbiamo ancora studiarle, capire come funzionano, le strategie migliori sono quelle di lavorare sui prezzi, ridurre i prezzi, abbattere le lacune di distribuzione, lavorare sulle community, quindi utilizzare i fan come strumento di promozione dei contenuti e ricordarsi sempre che la pirateria permette di aggregare la domanda, far aumentare la domanda di prodotti complementari in un franchise e creare degli effetti di network. Tu hai citato dei dati interessanti, secondo cui poi alla fine la persona più attiva su, per esempio, le reti peer-to-peer per scaricare musica è anche il target più pregiato dell'industria discografica, perché è comunque la persona che compra più musica, per esempio sulle piattaforme cosiddette legali come iTunes. È forse questo, come dire, un punto d'inizio su cui riflettere? Beh sì, sicuramente è il punto di partenza, perché ci permette di capire come la pirateria di fatto nei fatti non sia un abbattitore di introiti. Generalmente tutte le indagini che sono state fatte di tipo qualitativo dimostrano che i pirati, quelli più incalliti, in realtà poi dopo consumano prodotti culturali, magari su altre linee commerciali, però comunque consumano, quindi non compro il DVD ma vado al cinema o viceversa, non scarico musica legalmente ma vado ai concerti, compro merchandising, tanto. Quindi bisogna ripensare anche i modelli di business alla vista di quanto dei comportamenti di consumo, insomma, dei pirati. Allora, questo era Roberto Braga, che ha tenuto anche lui una presentazione durante gli Ignite. Cominciamo a parlare delle cose che avete detto su quel benedetto palco. Partirei da Emanuela, che ha parlato di un argomento a me caro, la social TV. In sintesi, erano già 5 minuti, adesso deve diventare 45 secondi. Anche di meno. Come sai, me ne sono serviti meno di 5 quel giorno, quindi riuscirò a fare ancora di meno adesso. Sì, social TV, ne ho parlato soprattutto sul lato delle potenzialità dell'engagement per gli utenti e quindi come questo può cambiare il nostro modo poi di conversare con la televisione, quindi non solo di fruirne, ma letteralmente di diventarne parte, cambiando anche poi in fondo le narrazioni che ci stanno intorno, interagendo con quelle e di fatto diventando un nuovo tipo di audience. Ma ti faccio 2 domande telegrafiche. La prima è: prima ancora che qualcuno si inventasse delle vere piattaforme di social TV, gli utenti da soli si sono arrangiati in tanti modi. Per esempio, si sono messi ad aprire dei lunghissimi thread su FriendFeed, in cui viene, che so, discussa in tempo reale un'intera puntata di Anno Zero o di Ballarò, non so, tipicamente sono questi talk show, no, che coinvolgono le discussioni. Continueranno a coesistere la modalità, diciamo così, dell'arte di arrangiarsi degli utenti magari su 2 schermi contemporaneamente, oppure il televisore finirà per per cannibalizzare anche questo uso attuale. Vedi, la cosa fantastica dei social è che per quanto si cerchi di trovare nuove metodologie per accentrarne le attività, loro riusciranno sempre, gli utenti riusciremo sempre a inventare qualcosa di nuovo. È nella natura delle cose. I primi, per esempio, mi ricordo i primi hashmobs, cioè l'uso degli hashtag per motivi di protesta su Twitter, sono nati dagli utenti. Gli stessi creatori di Twitter hanno detto: mai avremmo pensato ad un utilizzo di questo tipo, per fortuna. Ultima domanda sul tema, secondo te c'è spazio per uno social network nuovo esclusivamente televisivo oppure, per intenderci un po' alla Miso, no? Che è l'esempio americano che mi viene in mente, oppure alla fine saranno Facebook e Twitter, che ormai hanno superato il famoso, mi dispiace doverlo ripetere ancora una volta, tipping point oltre il quale c'è posto solo per loro, ad essere comunque il luogo dove risiedono le identità digitali anche di chi discute di televisione? Beh, in realtà secondo me le cose coesisteranno nella misura in cui, diciamoci la verità, tutti quei sistemi là come Miso e similari sopravvivono soprattutto perché sono integrati anche con questi social network più grandi. Secondo me va benissimo perché quello non fa che aumentare la conversazione, quindi ben venga in fondo. Ok. Giuliano, invece raccontami un po' questa tua presenza. All'inizio ti ho visto un po' nervoso prima di salire sul palco, sì, poi abbastanza. Ti sei sbloccato per raccontare che cosa? Io ho parlato del personal brand su internet, insomma, di come si cura la propria immagine e reputazione, di come ho cominciato apposta sulla base della mia esperienza, in parallelo con un libro di Seth Godin che si chiama Poke the Box, che parla appunto della filosofia di cominciare le cose senza starci a pensare troppo, e quindi di prendere l'iniziativa e andare avanti come viene, insomma. E sì, hai detto bene, ero visibilmente emozionato. Il mio problema è il public speaking, è al momento ancora quello che lo vivo molto dal punto di vista emotivo. Ora, mi dispiace che non abbiamo più Luca in collegamento, ma io ovviamente ho dovuto un po' provocarlo. Sono d'accordo con lui nel senso che ci sono delle basi universali che nessuno potrà mai cancellare, però penso che anche quello del public speaking è un'arte in divenire, proprio perché sono le persone a cambiare le loro esigenze quando si trovano in quella sala. Non è affatto detto che una persona voglia solo essere persuasa, probabilmente vuole anche essere persuasa, però non limiterei completamente lo spettro, diciamo così, delle fonti di appagamento di quella situazione. Allora, io per chiudere vi chiedo un'ultima battuta su queste frasi che abbiamo sentito poco fa di Roberto Braga, che possono sembrare un po' dirompenti sulla pirateria, eccetera, perché lui è uno dei pochi che tranquillamente parla di pirateria come fonte di business. Abbiamo avuto qui in studio tempo fa un confronto abbastanza serrato tra Enzo Mazza, il presidente della FIMI, quindi dell'industria discografica, e Guido Scorza, che è uno dei massimi esperti di libertà digitale, che si sono confrontati su questo tema, però non avevamo ancora sentito la voce di chi molto direttamente diceva, per esempio, che il pirata è forse il target più privilegiato dell'industria discografica di domani. Sei d'accordo, Emanuela, su queste cose? In parte sì, in parte ti dico, secondo me andrebbe rinquadrata in un'ottica più ampia, non tanto usare i fan quanto creare insieme a loro, quindi probabilmente ci vuole più un'apertura in generale, una maggiore collaborazione. Co-creation and crowdsourcing, sempre. Ecco, vedi che le famose parole che fanno strabuzzare gli occhi dei tuoi interlocutori. Eccole. Poi sarei curioso di conoscere anche la tua vita sociale e personale, come le risente di tutto questo. Giuliano, una battuta sulla pirateria. Sulla pirateria, oddio. No, non lo vuol dire, evidentemente è uno dei più incalliti. Scaricatori di musica dalle reti peer-to-peer. Va bene, non era un silenzio imbarazzato naturalmente, anche perché poi sulle reti peer-to-peer si possono fare tantissime cose legali. Anche, assolutamente, concordo. E quindi non è che il fatto che andare su BitTorrent significhi violare la legge, assolutamente. Certo, è opportuno che qualcuno si dia una mossa, perché i ricavi dell'industria non sono certo più quelli di prima e il valore degli artisti è rimasto invece lo stesso, e anzi per anni abbiamo dovuto sorbire esclusivamente Britney Spears e i vari nipotini. Forse c'è spazio per una maggiore diversità di contenuti anche grazie a queste reti. Io ringrazio naturalmente Giuliano Iacobelli e Emanuela Zaccone che mi hanno raggiunto in studio. Ringrazio ancora il viennese Luca Sartoni, che è intervenuto con grande autorità sul tema del public speaking. Vorrei ricordare, se avete un blog, ditelo, no? Il vostro indirizzo del blog. Tu ce l'hai, Emanuela? Oddio, è in fase di avviamento. Diciamo così, mi trovate dovunque, googlatemi e ci sono. Ma facciamo prima. Lei è già un passo avanti. Esatto. Questa cosa di scrivere degli indirizzi nella barra degli indirizzi effettivamente comincia a diventare complessa. Tu invece? Ma mi associo alla sua linea, però il giulianojacobelli.com ancora funziona. Sì, ha un senso. Sì. E ha un senso naturalmente anche conversational.it, che è il nostro blog dove potete trovare tutte le registrazioni delle puntate finora andate in onda. C'è anche il servizio di podcasting, quindi insomma non avete scuse. Siamo verso la fine della stagione di Conversational, mancano due puntate, ma continuate a seguirci. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima settimana.